ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie dal sottosuolo di Fyodor Dostoevskij, traduzione di Alfredo Polledro. Sono un uomo malato. Sono un uomo maligno. Non sono un uomo attraente. Credo che mi faccia male il fegato. Del resto, non me ne intendo un'acca della mia malattia e non so con certezza che cosa mi faccia male. Non mi curo e non mi sono curato mai, sebbene la medicina e i dottori li rispetti. Inoltre sono anche superstizioso all'estremo. Beh, almeno abbastanza da rispettare la medicina. Sono sufficientemente istruito per non essere superstizioso, ma sono superstizioso. No, signori. Non mi voglio curare per malignità. Voi altri questo di sicuro non lo vorrete capire. Ebbene, io lo capisco. Si intende che non saprei spiegarvi a chi precisamente io faccia dispetto in questo caso con la mia malignità. So benissimo che anche ai dottori non posso in nessuna maniera fargliela col non curarmi da loro. So meglio d'ogni altro che con tutto questo danneggio unicamente e solo me stesso e nessun altro. Ma tuttavia, se non mi curo, è per malignità. Se mi fa male il fegato, ebbene, mi faccia pure ancora più male. Già da un pezzo vivo così, da una ventina d'anni. Ora ne ho 40. Prima ero impiegato, ma ora non lo sono più. Ero un impiegato maligno, ero villano e ci provavo piacere. Perché sbruffi non ne pigliavo, di conseguenza dovevo pure ricompensarmi almeno con questo. Arguzia di cattiva lega, ma non la cancellerò. L'ho scritta pensando che sarebbe riuscita una cosa molto arguta e ora che ho visto io stesso che non volevo se non darmi ignobilmente delle arie, di proposito non la cancello. Quando alla tavola alla quale sedevo accadeva che si accostassero dei postulanti per informazioni, digrignavo loro i denti in faccia e provavo un godimento inesauribile quando mi riusciva di amareggiarne qualcuno. Quasi sempre mi riusciva. Per la più parte era tutta gente timida, si sa, postulanti. Ma fra i belli imbusti non potevo soffrire particolarmente un ufficiale. Egli non voleva sottomettersi in nessuna maniera e faceva un chiasso rivoltante con la sciabola. Per un anno e mezzo fui in guerra con lui per questa sciabola. Finalmente la vinsi, smise di fare chiasso. E del resto, questo accadde ancora nella mia giovinezza. Ma sapete, signori, in che consisteva il punto essenziale della mia malignità? In questo. Appunto, consisteva tutta la faccenda. In questo appunto era racchiusa la maggiore schifezza, che in ogni momento, perfino nel momento della più forte bile, ero vergognosamente conscio dentro di me che non solo non ero un vero uomo maligno, ma nemmeno inasprito, che non facevo che spaventare i passeri senza costrutto, e con questo mi consolavo. Ho la bava alla bocca. Ma portatemi una qualunque pupattola. Datemi un po' di tè con lo zucchero e c'è caso che mi calmi, che ne abbia perfino l'anima intenerita, anche se poi finirò di sicuro col digrignare i denti contro me stesso e col soffrire d'insonnia per vari mesi dalla vergogna. Tale è il mio costume. Mi sono calunniato poco fa, dicendo che ero un impiegato maligno. Per malignità mi sono calunniato. Facevo semplicemente lo stupido, tanto coi postulanti che con l'ufficiale, ma in sostanza non sono mai potuto diventare maligno. Ogni momento riconoscevo in me stesso molti, moltissimi elementi dei più contrari a questo. Sentivo che pullulavano addirittura in me questi elementi contrari. Sapevo che tutta la vita erano pullulati in me e volevano venire fuori, ma io non li lasciavo venire fuori, mi tormentavano fino alla vergogna, mi conducevano fino alle convulsioni e finalmente mi vennero a noia. Come mi vennero a noia? Ma non vi sembra, signori, che ora io mi penta di qualcosa dinanzi a voi che vi chieda perdono di qualcosa? Sono sicuro che vi sembra così. Ma del resto vi assicuro che per me è lo stesso, anche se così vi sembra. Non solamente non sono riuscito a diventare maligno, ma niente addirittura, né cattivo, né buono, né mascalzone, né onesto, né eroe, né inetto. Ora poi concludo l'esistenza nel mio angolo, stuzzicandomi con la rabbiosa e del tutto inutile consolazione che una persona intelligente non può nemmeno diventare seriamente qualcosa. Ma diventa qualcosa solo chi è stupido. Sì, signori. Sì, signori, l'uomo del secolo XIX deve ed è moralmente obbligato ad essere una creatura soprattutto senza carattere. L'uomo di carattere, invece, l'uomo d'azione, ad essere una creatura soprattutto limitata. Questa è la mia convinzione da 40 anni. Ora ho 40 anni, e 40 anni sono tutta la vita. Infatti, è la più tarda vecchiaia. Vivere più di 40 anni è sconveniente, volgare, immorale. Chi vive più di 40 anni? Rispondete, dai, rispondete sinceramente, onestamente. Io vi dirò chi vive di più. Gli sciocchi, i farabutti. A tutti i vegliardi lo dirò in faccia, a tutti questi rispettabili vegliardi, a tutti questi vegliardi dall'argente ocrine e bene odoranti, a tutto il mondo lo dirò in faccia. Ho il diritto di parlare così, perché arriverò fino ai 60 anni. Fino ai 60 anni io camperò, fino agli 80 anni camperò. Aspettate, fatemi riprendere fiato. Di sicuro... Pensate, signori, che voglia farvi ridere. Vi siete ingannati anche in questo. Non sono affatto un uomo così allegro come vi sembra, o come forse vi sembra. Del resto, se a voi irritati da questa cicalata, e già sento che siete irritati, verrà in mente di chiedermi chi sono io precisamente? Vi dirò che io sono un assessore di collegio. Facevo l'impiegato per avere qualcosa da mangiare, ma unicamente per questo. E quando l'anno scorso uno dei miei lontani parenti mi lasciò 6.000 rubli per testamento, diedi subito le dimissioni e mi stabilii nel mio angolo. Anche prima stavo in quest'angolo, ma ora in quest'angolo mi sono stabilito. La mia camera è misera, brutta, all'estremo della città. La mia serva è una donna di campagna, vecchia, cattiva per stupidità e per di più puzza sempre. Mi dicono che il clima di Pietroburgo mi sta diventando dannoso e che coi miei meschini mezzi è molto caro vivere a Pietroburgo. Tutto questo lo so. Meglio di tutti quegli sperimentati e saggissimi consiglieri e tentennoni, io lo so, ma rimango a Pietroburgo. Non me ne andrò da Pietroburgo, non me ne andrò per... Ma già, sì, ma fa proprio lo stesso che io me ne vada o non me ne vada, no? Ma del resto, di che cosa può parlare col maggior piacere una persona per bene? Risposta? Di sé. Beh, allora parlerò proprio di me. Ora, voglio raccontarvi, signori, sia che desideriate o non desideriate sentirlo, perché non ho saputo diventare nemmeno un insetto. Vi dirò solennemente che molte volte ho voluto diventare un insetto, ma perfino di questo non sono stato degno. Vi giuro, signori, che aver coscienza di troppe cose è una malattia, una vera e propria malattia. Per il quotidiano vivere umano sarebbe anche troppo la comune coscienza umana, cioè di una metà, di un quarto inferiore alla porzione che tocca in sorte all'uomo evoluto del nostro disgraziato secolo XIX, e che abbia per giunta la doppia disgrazia di abitare a Pietroburgo, la più astratta e artificiosa città di tutto il globo terrestre. Le città possono essere artificiose e non artificiose. Sarebbe sufficientissima, per esempio, quella coscienza con cui vivono tutti i cosiddetti uomini immediati e d'azione. Voi pensate, ci scommetto, voi pensate che io scriva tutto questo per affettazione, per fare dello spirito sugli uomini d'azione, vero? E ancora per un'affettazione di cattivo gusto, che faccia chiasso con la sciabola come il mio ufficiale. Ma signori, chi mai può menar vanto delle sue stesse malattie e ancora farne oggetto di affettazione? Del resto, che dico? Tutti lo fanno. Delle malattie, appunto, menano vanto. E io magari più di tutti. Non discutiamo. La mia obiezione non ha senso. Ma tuttavia sono fermamente convinto che non solo la troppa coscienza, ma anche... qualunque coscienza sia una malattia, ci insisto. Lasciamo anche questo per un minuto. Ditemi un po'. Per quale ragione accadeva che, come apposta, in quegli stessi, sì, proprio in quegli stessi momenti nei quali ero maggiormente capace di sentire tutte le finezze di ogni cosa bella e sublime, come si diceva da noi un tempo, mi capitasse non già di sentire, ma di fare delle azioni così poco eleganti. Che se bene magari tutti le facciano, mi venivano però fatte come apposta, proprio quando maggiormente avevo coscienza che non si sarebbero punto dovute fare. Quanto più avevo coscienza del bene e di tutto questo bello e sublime, tanto più profondamente mi lasciavo prendere la mia melma e tanto più ero capace di impantanarmici del tutto. Ma il tratto principale era che tutto questo pareva che non fosse casuale in me, ma che proprio così dovesse essere. Come se questo fosse il mio stato più normale e niente affatto una malattia e una tara. Cosicché alla fine mi passò anche la voglia di lottare contro questa tara. Finì che per poco non credetti, e forse credetti davvero, che questo fosse magari il mio stato normale. Ma sulle prime, all'inizio, quanti tormenti avevo sopportati in questa lotta. Io non credevo che succedesse ad altri. E poi lo tenni nascosto dentro di me tutta la vita, come un segreto. Mi vergognavo. Perfino adesso forse mi vergogno. Giungevo al punto che provavo un certo occulto, anormale, vigliacchetto godimento a tornare alle volte in un'infame notte di Pietroburgo nel mio angolo e sentire fortemente che anche quel giorno lì avevo fatto di nuovo un'infamia, che ancora una volta quel che era fatto in nessuna maniera si poteva disfare e rodermi internamente e segretamente, rodermi coi denti per questo, dilaniarmi e succhiarmi al punto che l'amarezza alla fine si convertiva in una ignominiosa, maledetta dolcezza e alla fine in vero autentico godimento. Sì, sì, godimento, in godimento, in godimento, ci insisto, in godimento. Perciò mi sono messo a parlare, perché ho sempre voglia di sapere con certezza se anche altri abbiano di questi godimenti. Vi spiegherò. Il godimento qui proveniva precisamente dalla troppo chiara coscienza del tuo avvilimento, dal fatto che tu stesso sentivi di essere giunto all'ultimo limite, che era una cosa pessima, ma non poteva neppure essere altrimenti, che ormai non c'era via d'uscita per te, che mai più saresti diventato un altro uomo, che se anche ti fosse rimasto tempo e fede per trasformarti in qualcos'altro, certamente tu stesso non ti saresti voluto trasformare, e se anche tu l'avessi voluto, non ne avresti fatto niente lo stesso, perché forse non c'era proprio nemmeno in che cosa trasformarti. Ma il punto principale, alla fin fine, è che tutto questo avviene per le normali e fondamentali leggi di un'intensa coscienza e per l'inerzia che deriva direttamente da queste leggi, e per conseguenza qui non solo non c'era da trasformarsi, ma neppure semplicemente da farci nulla. Il risultato di un'intensa coscienza, per esempio, è che hai ragione di dire che sei un mascalzone. Come se per un mascalzone fosse un conforto sentire lui stesso che è veramente un mascalzone. Basta. Ho parlato molto e che cosa ho spiegato? Cosa ho spiegato? Con che cosa si spiega qui il godimento? Mi spiegherò. Giungerò pure a un risultato. Per questo appunto ho preso in mano la penna.